sulle caustiche pagine del bisettimanale Bertoldo, nella seconda metà degli anni 30, Angelo Frattini ebbe a scrivere che forse il genio è un'anomalia del cervello, come il daltonismo è un'anomalia della vista. Frattini mirava a suscitare il sorriso, ma in realtà con questa sua affermazione non faceva che raccogliere il senso di un ampio dibattito scientifico cui presero parte psichiatri come Lelu, Moreau de Tours, Francis Galton, soprattutto Cesare Lombroso, con un libro come L'uomo di genio, che è del 1877, soprattutto con Oscar Panizza, con una conferenza del 1891 intitolata Genio e follia, e Xavier Francot con un libro pubblicato nel 1890. È un dibattito che si trascinò anche nel nostro secolo, grazie agli interventi di Freud, di Havelock Ellis e di Kretschmer, che nel 1929 pubblicò Gli uomini di genio. Recentemente l'antropologo Philippe Breneau ha pubblicato uno studio, Geni da legare, si intitola, nell'edizione italiana della PM, dove riassume e discute tutte le tesi avanzate a proposito dell'origine della genialità e di cosa debba intendersi con questa stramba caratteristica umana. Dall'analisi delle tante biografie selezionate dai vari studiosi emergono almeno una dozzina di sintomi che potrebbero indurre a diagnosticare il genio di qualcuno. C'è chi ha individuato il carattere della perseveranza e dell'autodisciplina, presumibilmente come quella dell'Alfieri, che secondo mio nonno si faceva legare alla sedia per garantire a se stesso letture proficue, o come quella di Napoleone, di cui si leggendaria che una candela ardesse nella sua tenda per tutta la notte perché il comandante indefessamente per tutta la notte appunto studiava il modo migliore di cavare le castagne dal fuoco. C'è chi poi, come Aristotele, ha messo il genio in rapporto ai cicli depressivi ricorrenti e alla melanconia. E c'è chi, proseguendo su questa strada, stabilisce un nesso tra genialità e inclinazione più e meno soddisfatta al suicidio. Secondo altri invece il genio è orfano. Orfani sono stati Balzac, Victor Hugo, Renan e Rimbaud, ed è inutile dire che chi sostiene questa tesi è francese. Poi c'è chi pone un rapporto fra il genio e l'insofferenza verso il consorzio civile e fa i nomi di Hölderlin, di Marcel Proust, di Salinger, gente che esce poco volentieri di casa. L'inclinazione all'uso di droghe è invece per altri un segno sicuro. Voltaire e Balzac ingurgitavano fino a 50 tazze di caffè al giorno. Coleridge sembra sia stato fra i primi intellettuali a ricorrere all'oppio. L'etere funzionava bene per Maupassant e il cloralio, prima di servire la sintesi del DDT, è servito a Nietzsche. Se Freud, poi, con tutti i complessi che aveva, è riuscito a dire qualche parola in pubblico, lo deve essenzialmente alla cocaina. Gente come Hemingway, Fitzgerald, Verlaine, Modigliani, Utrillo, Pessoa e parecchi altri che sarebbe lunghissimo nominare tutti, si accontentavano di intrugli alcolici vari. Ma c'è chi punta tutto invece su altri caratteri, come sulla precocità, in auge soprattutto fra i musicisti, con la riconosciuta eccezione per Picasso, Mozart, Saint-Saëns, Meyerbeer, Handel, Chopin, Paganini, Beethoven, fra i nomi più noti di coloro che componevano musica fra un cambio e l'altro dei pannolini. Crede di non sbagliarsi poi anche chi individua un rapporto fra la genialità e il peso vita natural durante di qualche handicap fisico. Platone, Aristotele, Mozart, Balzac, Napoleone per esempio, soffrivano per la loro bassa statura. Ma è anche vero che Mozart, peraltro, è diventato Mozart molto prima che della cosa potesse accorgersi e lamentarsi. Elaborando sul tema, altri ha messo in rilievo il rapporto fra i geni e qualche problemino di ordine sessuale. Newton e Leonardo in proposito potrebbero raccontare cose interessanti, così come Michelangelo, Cartesio, Leibniz, Voltaire, Kant, Beethoven, Chateaubriand, eccetera, eccetera. I più fantasiosi come Marsilio Ficino hanno sostenuto la tesi che diventa genio chi nasce sotto l'influenza di Saturno. E altri, meno astrologi e più ecologi, hanno segnalato chi nasce in primavera. Einstein, Cartesio e Michelangelo, Shakespeare e Leonardo, per esempio, sono nati tutti, mi sembra, fra marzo e aprile. Ora, siccome tutti quanti abbiamo conosciuto qualcuno incline a questo o a quel vizio, con quel difettuccio o quell'altro, magari precocissimo in qualcosa e magari anche nato in primavera, ma assolutamente e sicuramente niente affatto genio, di fronte a queste ricerche, rimaniamo freddini, anche perché abbiamo conosciuto anche dei perseveranti rigorosamente idioti, orfani, agorafobi e depressi normalissimi che dal proprio problema non hanno mai cavato che di buono, come peraltro intossicati cronici che all'umanità non hanno risolto problema alcuno. Fatto è che per evidenti carenze definitorie nella categoria dei geni può finirci poi chiunque. Ogni epoca, a seconda del sistema di valori adottato, avrà i suoi, e ritarando su queste scelte ritoccherà la lista dei geni precedenti. I prossimi saranno mostruosi prodotti della genetica. Epoca priva di geni, sarebbe quella in cui il sistema dei valori fosse ricondotto alla consapevolezza di ciascuno. Allora si saprebbe che qualsiasi cosa detta o fatta è detta o fatta con il concorso di tutti, e non ci sarebbe bisogno dei modelli esemplari distinti da tutti gli altri per giustificare un sapere che, trascendendoli, ratifica il sistema di potere. Da morto come da vivo passa per genio il regista cinematografico Stanley Kubrick. Non so che altri difetti avesse, ma so che viveva in una villa del Settecento e che prima di morire ha fatto in tempo ad autodepurarsi l'opera Omnia. Infatti ha dichiarato di non riconoscere due suoi film, per la precisione Paura e Desiderio e Il bacio dell'assassino. È il caso di una coerenza ottenuta con le forbici da parte di chi può, perché al mondo c'è anche chi non può, chi cioè, una volta messa la sua firma su qualcosa, deve trascinarselo dietro tutta la vita, memoria altrui inclusa. Chi può è il genio e chi non può non lo è, così si comprende anche il rapporto fra genio e capitale. Chi è genio come Kubrick, a quanto apprendiamo in attesa del suo ultimo film, può anche prendere due attori, come Cruise e la sua signora, la Kidman, spogliarli nudi e riprenderli mentre svolgono parti consistenti dei loro doveri coniugali. I due dicono che non avrebbero mai accettato se non fosse stato Kubrick a chiederglielo e a filmarli personalmente senza nessun altro presente alla scena. Non sarà più lo ius prime noctis, perché anche i geni a volte arrivano in ritardo, ma concettualmente poco ci manca. Allorché il genio, come figura eminente nella società che conta, si adorna di quella gloria di cui l'ha beneficiato il Rinascimento, Girolamo Cardano, matematico e giurista insigne, precocissimo nelle opere come nelle malattie e nelle disgrazie, tesse gli elogi di Cesare, di Alessandro e di Annibale e scopre l'intrinseca bellezza nonché l'immortalità del nome proprio. Deve essere per questo che gran parte dei cosiddetti geni, soprattutto fra i letterati, hanno speso tempo e pazienza in cerca di un nome diverso dal proprio, uno pseudonimo, in modo da consegnarsi alla posterità con maggior sicurezza e garanzia di memoria. Balzac, per esempio, che si chiamava Honoré Balzac, poi tramutato in Balzac, ha studiato il problema per 10 lunghi anni, escogitando uno pseudonimo via l'altro, fino a che ha capito che un semplice de inserito fra nome e cognome sarebbe stato sufficiente a conferirgli quella nobiltà d'animo e di corpo senza la quale non si vedeva provvisto del necessario lasciapassare per l'eternità. Al povero Cardano le cose, tanto per cambiare, sono invece andate male. Perché nel 1999, allorché un traduttore traduce dal francese il libro di Brenot di cui vi ho parlato, dimenticandosi delle sue origini pavesi e della sua tutta italica esistenza, lo cita come Jérôme Cardan. Evidentemente un nome caduco.